Voci d'impresa, vite e storie dietro l'azienda. Claudio Feltrin e Harper, prodotti italiani di design nel mondo, di Alessandra Scaglioni. La storia di oggi è la storia di un'azienda familiare che ha puntato sul design, ha conquistato i mercati europei ed è arrivata sui mercati di tutto il mondo, ha decuplicato in poco più di 10 anni il fatturato e ricevuto diversi riconoscimenti internazionali. L'azienda si chiama Harper, si trova in provincia di Treviso e produce sedie, tavoli, arredi per spazi pubblici, uffici e università. È stata fondata da Luigi Feltrin, oggi è guidata dai figli Mauro e Claudio. L'azienda nasce nell'89, quindi non è proprio una data cortissima, il prossimo anno sarebbero 25 anni dalla nascita, però diciamo che la nostra azienda è stata fondata da mio papà, mio fratello ed io, quindi è un'azienda assolutamente familiare, partendo da zero e partendo da un'esperienza praticamente pari allo zero nella problematica che abbiamo affrontato, se non un'esperienza di terzismo fatta prima, in precedenza, sulla quale abbiamo capito anche subito che nel terzismo c'era poco da poter fare, perlomeno per noi. Facevamo praticamente delle lavorazioni del cuoio per terzi. L'azienda parte come sono partite gran parte delle aziende familiari italiane. Siamo alla fine degli anni Ottanta. La voglia un po' di fare, anche l'orgoglio di fare qualcosa di proprio, di creato da noi sostanzialmente, è stata la molla, diciamo le due molle che hanno fatto sì che abbiamo deciso di partire a fare un'azienda nostra, con diciamo la volontà di creare i nostri prodotti e cominciare a vendere i nostri prodotti in un mercato che a quel tempo era un mercato diciamo molto favorevole. E abbiamo fatto la prima fiera proprio nell'89 e da lì siamo partiti sostanzialmente. Quindi io mi disegnavo un po' i prodotti perché avevo un po' di esperienza, avevo fatto della scuola d'arte. Ho cominciato a seguire un po' i cataloghi, a fare le prime esperienze, la gestione un po' diciamo produttiva insieme a mio padre, e mio fratello si occupava della parte commerciale. All'inizio in azienda c'erano il padre, i due figli ancora molto giovani e poche persone a lavorare con loro. Siamo partiti un po' alla garibaldina, diciamo così, quindi non avevamo, ripeto, se non quell'esperienza produttiva, ma però siamo resi conto subito che non era sufficiente comunque per riuscire a dire faccio un'azienda per andare nel mercato. Quindi lì ovviamente abbiamo passato varie difficoltà. Da parte nostra non c'è mai mancato sia quel pelo di incoscienza, ma anche una certa caparbietà e anche una certa voglia di fare comunque le cose bene. Se non si sanno fare in proprio, si cerca qualcheduno che ti aiuti a poterle fare. Pian piano, nell'arco di 10 anni, noi siamo riusciti, insomma, partendo da zero, siamo riusciti a sviluppare un fatturato circa di 10 miliardi, quindi 5 milioni di euro. La nuova attività si affianca all'attività di terzista e per un periodo di tempo le due produzioni convivono. Intanto l'azienda cresce. L'ambito di attività è la nicchia delle sedie in cuoio, che arriva dall'esperienza precedente e rappresenta un ambito specifico all'interno del settore delle sedie. Come tutte le nicchie, a un certo punto arrivi al tetto, sostanzialmente. Quindi di conseguenza noi eravamo arrivati a una dimensione abbastanza complessa e complicata da renderla, fra virgolette, pericolosa. Quindi abbiamo fatto un punto della situazione e abbiamo detto, allora, o si torna indietro e quindi si riduce il grado di pericolosità, quindi riduciamo i nostri obiettivi di crescita e ci rinchiudiamo nella artigianalità, oppure rilanciamo e quindi cresciamo. E rilanciamo andando avanti, quindi cambiando completamente, quindi ci mettiamo nell'ambito del design. L'idea questa è stata proprio quella di rilanciare in termini proprio di creare un brand, sostanzialmente. Alla fine degli anni 90, Harper avvia quindi un progetto industriale rivolto principalmente al design, con l'impiego di materiali e tecnologie nuove. Gli obiettivi sono subito chiari, ma anche molto ambiziosi. Ovviamente avevamo dei punti di riferimento sui quali ognuno fa, diciamo, cerca di concretizzare o rendere tangibile quel che è la sua idea che ha in testa, no? E nel momento in cui noi però abbiamo dovuto fare questa operazione, abbiamo conosciuto anche, è stata lì nella vita ci vuole anche fortuna. Secondo noi ne abbiamo avuta a sufficienza e da parte nostra siamo stati bravi a sfruttarla. Abbiamo incontrato un designer che, parlando assieme, è una persona che siamo subito entrati in feeling. E io ho parlato del mio sogno sostanzialmente. Lui mi ha detto, vabbè, ma fammi capire cosa vuol dire. Allora io gli feci il nome dell'azienda e lui mi dice, come dire, non so, nel cambio automobilistico sei un'azienda media piccola e aspiri a diventare la Rolls Royce. Ecco, cioè, diciamo che è un po' passa tra il presuntuoso, l'incosciente o qualcosa, ma però ti fa capire subito la tua intenzione. Si organizza la squadra creativa, quella che deve leggere e interpretare le tendenze del mercato e a creare e sviluppare prodotti coerenti con esso. Poi c'è un altro lavoro da fare. E poi invece l'altra parte, quella difficile, era quella di riuscire ad organizzare l'azienda con un concetto più industriale, cioè quindi meno artigianale, meno faccio tutto io. Quindi cioè, all'inizio, cioè, da disegnarti le sedie, da farti i disegni dello stand, farti i progetti, seguire i falegnami, andarti a montare lo stand, seguire fatti i listini, cioè fatti le fotografie, cioè, quindi facevi tutto. È chiaro che non ti puoi incaponire a far tutto te, perché poi appunto logicamente ti affossi. Il nome Harper è un acronimo, ma rappresenta un progetto. È un acronimo tra... sostanzialmente arredamento per, ecco, pensando arredamento per, quindi per la casa, l'ufficio, l'albergo, l'aeroporto, cioè quindi mantenere una visione molto larga già dal nome stesso. Poi doveva essere con la A, perché magari anche negli elenchi risulti essere sempre fra i primi. Corto a sufficienza, perché esportando vorresti che la parola sia facile da pronunciare e anche facilmente memorizzabile. Abbiamo cercato già dall'inizio di metterci dentro qualcosa che potesse essere, diciamo, d'aiuto poi in un futuro che si sperava già radioso, no? E il futuro è davvero radioso. Il fatturato è in costante crescita nonostante la crisi. Ok, puoi decidere di cambiare il vestito della tua azienda, cioè puntare in un altro tipo di mercato, ma è chiaro che questo lo devi far capire anche ai tuoi clienti che hai attualmente, che alcuni potrebbero essere già adatti a ricevere una parte di questa innovazione, alcuni altri assolutamente non sono adatti, e quindi tu devi riuscire a bilanciare questo travaso, diciamo, di clientela e quindi di mercato. Ci è riuscito bene, perché abbiamo azzeccato già subito dei prodotti assolutamente vincenti, che sono ancora tuttora vincenti. Tanto è vero che per dare la misura del nostro percorso, quindi 2.000, 5 milioni di euro, quindi dalla partenza del cambiamento, 5 milioni di euro. Ad oggi, che sono, abbiamo chiuso l'anno scorso a 52 milioni, 51 milioni e mezzo. Sede a Monastier, Treviso. 130 dipendenti con un turnover bassissimo. Media d'età intorno ai 35 anni, 75% donne. Una forte collaborazione con un territorio dove i distretti industriali e le specializzazioni artigiane non mancano. Anche se negli ultimi anni, complice la crescita dell'azienda e la crisi che ha messo in difficoltà i piccoli artigiani, alcune produzioni sono state portate all'interno dell'azienda. All'inizio, nella scelta di dover svincolarsi dalla logica cuoio, noi dovevamo dire, vabbè, ok, adesso ci svincoliamo da quella logica e i nostri prodotti non devono avere la problematica del materiale. Qui ha favorito moltissimo il territorio dove noi siamo, dove c'erano già delle specializzazioni molto spinte, quindi c'era chi ti serviva presuffusione ad alluminio, ce l'avevi, volevi l'estrusione, ce l'avevi, volevi la pelle, ce l'hai, c'avevi i tessuti, ci sono i tappezzieri, ci sono i falegnami, i cromatori, i saldatori, cioè, quindi è una fabbrica a cielo aperto, diciamo, sul territorio. Primo paese la Germania, fortissima la presenza nel nord Europa, 75% del fatturato in Europa, showroom in America, Australia e Asia. Gli ultimi inaugurati nel 2013 a Oslo, Amsterdam e Copenaghen e da giugno all'interno dello storico Merchandise Mart di Chicago. All'interno del piano di espansione globale dell'azienda, già avviato attraverso l'apertura degli showroom di Milano, Colonia, Stoccolma, New York e Londra. Previsioni di espansione sul mercato americano, dove Harper è presente da 3 anni con una società consociata, Harper USA Inc. Adesso Harper guarda anche al mercato italiano, puntando sull'esperienza internazionale e su alcuni punti di forza. 96% di esportazione. Quando siamo partiti proprio nell'89 c'erano già le aziende, cioè, ce n'erano di tutti i tipi presenti nel mercato in maniera molto, molto forte, quindi noi arrivando da buoni ultimi abbiamo detto, ma dove andiamo a farci male? Cioè, non avevamo neanche i soldi, o potevamo fare la fiera o potevamo fare il catalogo. Abbiamo detto, beh, facciamo la fiera. Allora abbiamo scelto, beh, andiamo all'estero, puntiamo sull'estero. Quando abbiamo fatto un'indagine per capire come eravamo visti dalle persone, proprio abbiamo il mercato italiano, il mercato più complesso per noi sostanzialmente, e abbiamo visto che chi non ci conosceva sfogliando i cataloghi diceva, non la conosciamo, però questa azienda ha un prodotto serio. Chi ci conosceva ci dice, è un buon marchio, non è ancora molto conosciuto, però sicuramente a livello di servizio è al top anche dei migliori brand che ci siano.